con Giulia Galassi della rete territoriale Cinecittà Bene Comune per la sesta edizione del Cinecittà Film Festival a Roma, al Parco degli Acquedotti, dall'11 al 14 luglio 2019. Giulia, ben trovata. Buongiorno a tutti, ciao. Ci racconti intanto spiegando cos'è il Cinecittà Film Festival? È arrivata la sesta edizione, siamo un sacco contenti ed è un festival totalmente gratuito, autogestito, autorganizzato, autofinanziato anche da Cinecittà Bene Comune, che è la rete di un municipio, insomma, nella zona di Cinecittà, appunto. E il festival è nato, è stato appunto nel 2014 per sostenere i lavoratori di Cinecittà, perché il festival, insomma, la rete territoriale sostiene tutte le varie vertenze del territorio, tra cui c'è stato il periodo dal 2012 per qualche anno in cui volevano chiudere Cinecittà, volevano trasformare Cinecittà in un parcheggio, in un centro benessere, in un parco giochi, insomma, è tutto tranne che farla continuare ad essere un polo di produzione audiovisiva, cinematografica. E quindi il festival è nato per far conoscere questa situazione, perché poi, come al solito, no? Magari sono cose che chi ci sta dentro le sa, ma il territorio, le persone, la città in generale non si sapeva nulla. Quindi è nato per far conoscere e far sostenere questa causa e anche per portare un po' di cultura e di cinema in questo territorio, che è il territorio del cinema, tutto il quartiere intorno a Cinecittà, che è uno dei più popolati di Roma, in cui in verità da anni non arrivava nulla dal punto di vista istituzionale, come dire. E quindi abbiamo deciso come rete, io personalmente sono entrata, faccio parte anche di un'associazione che si chiama Greve 61, siamo ex allievi della scuola Volonté, insomma sono entrata, diciamo, da quella via, ero allieva della Volonté in quegli anni dell'occupazione. E abbiamo deciso di mettere su il festival per portare il cinema al quartiere, per sostenere la causa, e negli anni poi ce l'abbiamo, insomma, si è strutturato in una modalità con dei film in concorso. Abbiamo scelto di mettere tanti film di autori emergenti e film che sono stati distribuiti un po' per finta, perché poi è un problema bravissimo, secondo me, il cinema in Italia non è tanto la produzione quanto la distribuzione, nel senso che poi i film si fanno, ma escono in due sale e mezzo, ci rivediamo in sette persone, tra cui mamme, fratelli e zii, e poi il pubblico alla fine non riesce a vedere questi film, per cui tendenzialmente l'idea era quella di portare questi film a un pubblico popolare, la gente, insomma, del quartiere, che viene al Parco degli Acquedotti, che è già di per sé una location perfetta, arena estiva, in cui però vedi dei film che, appunto, magari non hai avuto modo di vedere, che ne so, ad Atlantic sulla Tuscolana, ecco. Quindi abbiamo messo in concorso, e anche però i grandi capolavori girati in Cinecittà, sempre per ricordarsi di come Cinecittà sia stato ed è tuttora un polo di produzione di grandi capolavori. Tornando brevemente alla vicenda Cinecittà, com'è ora la situazione rispetto Allora, ora agli spazi e anche ai lavoratori? la situazione ora è molto migliorata, perché Istituto Luce ha ripreso la gestione dei lavoratori. Cioè, c'era stato un periodo in cui con Luigi Abete stava privatizzando tutto, per cui c'erano o degli appalti a delle società esterne e molti lavoratori sono stati cassintegrati, alcuni licenziati, ma al momento è ritornato tutto in mano al Istituto Luce, quindi in maniera più pubblica, e la situazione, insomma, è abbastanza vista, quindi siamo molto contenti perché decisamente è migliorata rispetto a quando abbiamo iniziato il festival, che era il 2014, il periodo, insomma, più grave è stato tra il 2012 e il 2015, in cui era tutto, appunto, a rischio privatizzazione totale, per cui tutto quello spazio, anche proprio fisicamente, poteva essere destinato a tutt'altro, cioè tutti i teatri che ci invidiano e copiano in tutto il mondo erano destinati, appunto, a diventare centro benessere o parcheggi della gente che arrivava dai castelli. Quindi adesso sono arrivate molte produzioni anche dall'estero, quindi proprio 3-4 anni, è stato anche un grande ritorno delle produzioni americane e ovviamente questa roba ha portato lavoro e ha fatto un attimo ripartire tutta la macchina Cinecittà, che è giusto, che funzioni per quello e non per altro. Sì. Quindi questo era la nostra, il nostro obiettivo. Per quanto riguarda il festival, quanti sono i titoli proposti? E poi chiaramente si è previsto l'incontro anche con autori e autrici. Certo, allora quest'anno abbiamo, io sono molto contenta perché abbiamo 4 registe donne, il nostro concorso è un concorso a giuria popolare, insomma, quindi persone che vengono, votano il film che preferiscono, abbiamo 4 registe donne giovani con opere prime, e abbiamo Go Home di Nuna Gualano, Mamma di Carlo Di Tommaso, Norma di Atelier delle Tulli, la Zenna di Assolutile di Margherita Ferri. Quindi questi sono i titoli in concorso e le autrici verranno, credo tutte, mi sembra di ricordare, oppure di solito riusciamo a fare dei collegamenti magari via Skype per la presentazione del film. Ci saremo anche dei documentari anche internazionali. Qui no, non avremo gli autori, però tendenzialmente sui documentari proviamo a fare dei dibattiti col pubblico, degli interventi. Nel complesso quanti lavori? Abbiamo 4 film in concorso, 4 capolavori di Cinecittà, quindi già siamo a 8, 3 documentari e anche film d'animazione. Abbiamo 4 film d'animazione, che la sezione d'animazione funziona sempre tantissimo perché il parco è stupendo e i bambini sono sempre tanto contenti di venire a vedere un film sotto gli alberi. Quindi abbiamo in totale 4, 8, 12, 3, 15. Come saranno articolati in queste giornate? Abbiamo 2 arene, un'arena grande e un'arena piccola. Nell'arena grande, a partire dalle 21, proiettiamo il film in concorso e appena dopo, quindi 22:30, 23, il capolavoro di Cinecittà. Mentre nell'arena piccola, alle 18:30 abbiamo i documentari e alle 20:30 abbiamo i film d'animazione. Bene. Quindi si può scegliere dove andare, abbiamo un'area cibo e bevande, è una situazione molto molto piacevole, devo dire, non solo perché sono di parte, ma sinceramente ci sta bene al parco di sera a vedere film, a mangiare, bere e anche una situazione appunto di socialità oltre che di cultura. Quindi questo era il nostro obiettivo. In chiusura ci dai tutti i riferimenti internet per la programmazione? La pagina Facebook con Cinecittà Film Festival, in cui c'è l'evento e giornalmente aggiorneremo, insomma, metteremo il programma giornaliero. Siamo al Parco degli Acquedotti, esattamente alla destra della chiesa di San Policarpo, quindi vicinissimo, insomma, la fermata Giulia Agricola più o meno, e siamo lì da domani a partire dalle 21 e invece poi da venerdì 12 a partire dalle 18. Aspettiamo tutta Roma per venire al nostro festival. Sesta edizione del Cinecittà Film Festival a Roma, Parco degli Acquedotti, dall'11 al 14 luglio 2019. Un saluto e un ringraziamento a Giulia Galassi della rete territoriale Cinecittà Bene Comune. Un abbraccio, grazie, in bocca al lupo e a risentirci grazie, presto. Grazie, viva il lupo. A presto, grazie, ciao.